La forza necessaria per spostare il masso è di 9.000 newton, ma grazie alla leva si riduce della metà. Quanta forza vi servirà quindi per muoverlo?